Napoli, addio, addio, la tua soave immagine, chi mai scordar potrà, per cielo azzurro fulgido, la placida marina, ma le core non inebria, non verrà la mia rivolta, e le bella terra l'ora, favella nuova amore, se sola al mio dolore, scalfa, io sognerò. Come on!